Friuli nel mondo, 70ª trasmissione dedicata agli emigrati. Primo festival della canzone friulana. Siamo nel magnifico parco della villa Giacomelli a Pradamano, trasformato in rapsodia di luci e di colori per la conclusione del primo festival della canzone friulana, organizzato dalla Scuola Libera Friulana e al quale hanno partecipato musicisti, cantanti e orchestrali locali, tutti dilettanti. E questo è il primo esperimento di dare forme musicali nuove alla gamma dei sentimenti che, attraverso testi friulani, non dovrebbero discostarsi dall'ambiente e dalla tradizione nostrani. Opportunamente selezionate prima e acclamate poi dal numeroso pubblico presente, il microfono di Friuli nel mondo ha registrato, cari amici lontani, le canzoni premiate fra le 10 eseguite. Ora la voce di Desiderio Bressan interpreta la canzone Anin Frutute di Leopoldo Carletti. Thank you. Il giovane Dante Visentini ha presentato la composizione dal titolo Biele manine me, che viene cantata da Beppino Lodolo. Che sere d'autunno si scurive il gnocci, la tobie le manine si poiave sul fi, dai l'insuia suia, o riguardi la luna e ci arezza col blanco, i tuoi bocui ninine mostra il vinto l'amor. E un eman saluta piele manine me, manche tu stesse rosate, manche tu stesse tussate, ti areci mia intimo. Che flos cence savor viene manine me mandi lo sor di lune tu miele di fortune torni mia carità e lassi ti che flor cence savor viene manine me mandi lo sor di lune du miele di fortune torni mia carezza e lasciti. Oh.